cosa si tratta, che film è? Penso un thriller, qualcosa del genere. Già sono belli quei film, già sono belli. Insomma, sto un po' in radio qua, ma poco a padre, ho cercato un bel po' di lumacchino, buone, veramente buone. Beh, seppur sono state sfogliate, compagnia bella, già, sono buone, sì. E in due giorni, le sfogliate lavate bene, bollite, risciacquate, condite bene, e via. C'è una torre grande. Che te devo dire? No, mi si è messo un po' di venticello. Ma sta bene, sta bene. Sta tirando col venticello. Ma rispetto alla cucina, già passa lo stesso, però... Ma questa cameretta è... C'è un balcone a due passi, così che l'aria è più circolabile, diciamo. No, no, c'è sta bene, c'è problema. Sì, molto, molto bene. Antonio Grotte, ancora c'è una cosa, Antonio Grotte. Ehi, Antonio Grotte, signor Vedente, che sta ancora c'è una roba buona, si sta mangiando caviale, con pollicina, e ti dai un po'. Faccia andare avanti, come si faccia? Niente casa, niente male, sempre buttato dietro il manco, mi sono rotto le palle. questa macchina sua, adesso sicuramente a fine anno cambieremo quella lì perché è vecchia, è del 2004, se la cambia lì, a me macchina non serve, sto benissimo così, senza debiti, senza problemi, ti ripeto, al lavoro e boh, l'importante è avere una busciacca. Quello si conferma. No, per carità, non è che sia meglio, grazie. Sono anche orgoglioso perché se uno dà tanto vuole anche tanto, è giusto che sia anche così. Sì, si è preso questo fuoristrada, è bellissimo, una bella macchina, si è messa sul nero, color nero. Sì, bella macchina, no? Assolutamente invidioso, per carità, anzi, bisogna essere più che orgogliosi, no, che invidiosi. Invidiosi che cosa? Se uno ha dato tanto, è giusto che debba anche ricevere tanto, no? Per quanto ne pensi. Del resto, ci si prende sempre la salute, poi, vedi di una moglie aveva la sua. Non infatti perché, per carità, sfitti ce ne abbiamo fatto tanti. Gli ho detto basta con tutto perché no, non mi interessa più niente. Tanto molto non posso portare più, perché c'è un problema alla spalla. Sarebbe da uccidermi con le mie mani, quindi perché continuare a buttare via quattro? Ho detto. E hai visto cosa ho fatto qua? Invece sperperare il denaro, mi sono sistemato le cose che mi interessavano a me. Ho fatto un paio di radio nuove, belle, ho fatto tutta la stanza nuova, c'è la radio e questo mi è costato una bella soldi perché falegname, non me l'ha fatto gratis e quindi e sono contentissimo, obi per obi, sono contento così, per il resto non mi manca nulla, non devo nulla a nessuno. E vado avanti per la mia strada tranquilla e serena, ma non rimbiasi, si chiude capo a terra, fa tutto, non siamo in affitto a me, io sto benissimo, proprio ora sono rinato. Sì, ma è così, ma stavo sentendo l'altro giorno, ma il falegname è stato per caso male, è stato all'ospedale, perché stavo seguendo un attimino un passaggino e dice non è stato andato bene il falegname. Sì, siamo sentiti per telefono, non è stato bene, non sapevo niente, sono sceso un paio di volte per dare delle misure, ho visto che era chiuso, però sai, ero abituato, lui magari facendo qualche lavoro esterno, si assentava spesso, invece mi ha telefonato proprio il giorno dello sito radio. Non ho voluto dire in radio, non te lo dico in radio, comunque è andata bene. Molto bene, c'è convalescenza, ne ha ancora tutto il mese di agosto. Poi mi ha detto adesso vedo se ce la faccio, continuo, se no la giornata rimane lasciata, in pensione già in pensione, e si dà via le luci, se mi va di fare qualche lavoretto lo faccio, se no niente, lavori grossi non prendo più, perché no, non può, poi ti dirò di persona, sì, è stato molto male. La cosa che mi dispiace di più, e poi ti dirò lo stesso di persona, è che lui non c'era per più di un mese, invece si pensava che fosse dietro il microfono, abbiamo mai capito. Ho capito. Sono cose purtroppo, ma l'importante è che... Cosa posso dire? Che stia meglio, dai. Però so purtroppo, la vita molte volte fare sacrifici dalla destra manca e poi porca miseria, basta un colpo e caput. Ma speriamo bene che si riprenda la grande, e così va più che bene, dai. C'è tranquillissimo, solo che se tardava un po', le conseguenze erano ben più gravi, tutte quelle che mi ha tolto al telefono. Comunque, per il momento è tutto a posto, l'operazione è andata bene, è tutto ok. Adesso si vedrà, dopo la convalescenza, va a posto, vuole fare ancora delle visite, dei controlli, vediamo un po'. Va bene, no, è un grande Giulio, grandissimo Faria. capito, perché non abbiamo ancora di questo materiale, capito? Non delle tavole avanzate che lui ha accoppiato, fatte, ma ho visto una talina in lavorazione, questo scartoso è micidiale, molto bella. Adesso lasciamo in pace, tranquillo, anzi se stai ascoltando Giulio, un abbraccio grande, lo sai, che ti stimo tantissimo, in bocca al lupo, ma riprenditi presto, lui ascolta moltissimo, non si sdraia, maledetto. E quindi niente, tutto qua. Eh sì, io contraccambio il tutto lo stesso a Giulio, un grande abbraccione e la pronta guarigione, e ci si riascolta presto. Sì, è così, Claudio, è così. Sì, sì, beh, completando, è bellissima com'è, però completandola con la U è fenomenale. È molto bella la tua stazione così com'è, ripeto, però se ne fai quella U, guarda, è molto, ma molto completa, sì. Ma quello magari più avanti, se il carissimo Giulio se la sentirà, se ci sta ascoltando già, si porterà avanti anche quel discorso lì. E io ho mio suocero all'ospedale, nuova proprio adesso parlando di malattie di corso, l'hanno ricoverato ieri mattina alle 4 del mattino e lo devono operare al cuore. Quindi avete tu come ti sembra la vita? La mia pure un bel pass, come cavolo si chiama. Sono male nell'intervento. Io se non è di me, dai. Occhio, serenità e tranquillità. Non si è messo a ciò uguale. Sento male, gli hanno messo un pacemaker. E poi l'operazione. Aveva altri problemi, altre conseguenze, quindi non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. E purtroppo quando siamo a certa età è così, io ho una mamma che ha già superato gli 80 di brutto, 83, e non ho avuto grossi problemi alle gambe, osteoporosi, e quindi piano piano quello qualcolino si è prendendo, però alla fine non c'è più niente da fare, adesso sta continuando a fare filtrazioni, fisioterapia, massaggi, ogni tanto vanno a Sardar, alle terme, però no, già è tolto pedico, si prepari a stare seduta in quella sedia che si chiama ruote, capito? Vabbè, però la sua vita ce l'ha fatta, io quello che gli ho detto. Vita te l'hai fatta, adesso pensa a farcela sino a quando Gesù Cristo ti lascia, e poi pazienza, quello che devi fare l'hai fatto, lui a per dire già si è sistemato tutto, ho avuto grossi problemi anni fa con mia madre, che poi abbiamo risolto e chiarito, ed è sempre un problema perché sono i tuoi genitori, io poi nato senza padre, praticamente non è morto il babbo, avevo 3 mesi, più grande aveva 9 anni, la più grande, la femmina, 9 anni, quindi già si era pure levantato i pantaloni, già ci ha fatto grande, non ci ha fatto mancare niente, e quindi va bene così. Sì, poi la mamma è sempre la mamma, come il padre è sempre il padre, bisogna sapere anche perdonare nella vita, perché se non si sa perdonare vuol dire che proprio non siamo umani, ma noi arriviamo anche a quello, a saper perdonare, che è molto molto importante, specialmente con i genitori. Io lo stesso ho avuto alti e bassi, ma purtroppo è mio padre, io ho perso anche mia madre, e rimarrà sempre mio padre, come rimarrà sempre mia madre, anche se ne è andata come è andata, purtroppo è così, e la vita riserva tante ma tante sorprese, Claudia, pare così, ma io sono del parere di far l'amore e non far la guerra, è così, e che dire, ma sì, si cerca di andare avanti, Cody, che ci vuole fare la vita, purtroppo è così. E infatti, hai detto bene, ci sono dei problemi nella vita che stare a alla battaglia su tante strozzate. Uno può sbagliare, sbagliare umano, ma è anche fattibile discuterne, chiacchierare, insomma, cercare di mettere a posto le cose. No, beh, io c'è stato che fa un problema in famiglia, e mi sono notato, niente in particolare. Poi io ho rimediato, tutto a posto, nessun problema. Però loro hanno una mentalità, non ne abbiamo un'altra, purtroppo quando si cresce, si vive. Io mi sono sposato a 25 anni, non ho fatto altro che entrare la chiave nella mia casa, aprire, c'era anche quasi appesi, quindi non è che mi ha lasciato indietro, mi ha abbandonato, eccetera. Il corso è successo dopo, quindi forse anche per colpa mia, per il mio carattere, per la mia voglia di fare, magari non essere fatto bene, non lo so come. Oggi non mi posso pentire niente, ho rimesso tutto a posto e grazie a Dio ci sono riuscito con tutte le mie forze, ecco perché ti ho detto che è meglio stare tranquilli e sereni, pensare a lavorare, alla famiglia e soprattutto a dare di più alla famiglia, perché chi lascia la famiglia indietro vuol dire che non è proprio niente, niente di niente. Io non ero uno di quelli, perché grazie a Dio a casa non mancava niente, però stavo dedicando troppo tempo amicizie belle e brutte, e soprattutto stavo perdendo troppo tempo al bar, troppo, ma avevo detto basta, da un anno e mezzo che io non so mai cosa vuol dire entrare in un bar, o per meglio dire, dopo le gallerie mi fermo il mio solito caffè, le mie sigarette e a lavorare, e ho finito di entrare al bar. Entro più ai tabacchini che al bar, sinceramente parlando, perché così, sicuramente purtroppo sono diventati un pericolo, e quando lavori per buttarli via è un grande peccato, se si fa il sacrificio si fa per mettere da parte, e per essere convinti e convincerti veramente che ti possono servire per un domani. Capito? Perché se apri cassetto non c'è mai, vai in banca non te ne danno, ma cosa non le puoi chiamare, diventi, perlomeno io senza soldi diventerei fatto. Ma è così, purtroppo si vive col denaro, si vive col denaro purtroppo. Ma Antonio Grone adesso si è perso? Oh, Pinocchio Ermolo, una braccia dai, è un buon ascolto, dai, è tornata qui nel canale, ciao Pinocchio, in compagnia di Claudietto sono, vai Claudietto per Pinocchio. Ciao Perù, buonasera, ben ascoltato, mi accoppi. Via Perù che ti ascolto, e tu mi ascolti? Il Mascio, non usano 100 watt, basso sono, tu vuoi sentire sempre quello con l'elicottero, gaiete. Mare, giuretto mai cercato, non trovi il mare, e chi c'è andato al mare Perù? Non ci vado io al mare, no, non ci vado e mi stanco ancora di più, capito? Comunque io ti ascolto, non ci sono problemi, vai tranquillo, vai Falchè. Oh, Pinocchio, perché come ti sta arrivando? Massino oggi? Massino, caspiti, l'altro giorno mi ha detto che stava arrivando, che era una meraviglia. Adesso ce lo facciamo regalare a Babbo Natale al prossimo anno, il baracchino nuovo, Pinocchio. E avremo già posto tutto, non c'è trovo niente, avremo già posto tutto, Pinocchio. Non credo meno, no. E poi lo va a camminare a pese. Ella non si tocca, croce, quella non si tocca. Cosa vede la Vespa? Allora. No, non si tocca quella, no, non si tocca. Quella lascia andare dov'è più. Quella lascia dov'è. È l'unico mezzo di trasporto buono, la moto. Gaviette. Ascolta, è l'avventura finita, devi assemblare. Vado senza avventura, la sarà finita, devo assemblarla. Ma in tazza, sparate in tazza, oh, 67 qua. Cosa c'hai? Metti l'antenna buona invece di mettere il topo. Ma quale stai usando? 507? Ma sta segnando quasi 4, ma sicuro sì, se li sta segnando bene allora. Ma volta che diventano non bisogna fidarsi mai della pannocchia clou. Perché? Fa diarrea? No, no. No, il va arrostita, come va, cioè fatta arrosto. Mentre sta arrostendo gli passi il burro e dopodiché il sale, ed è una leccornia. Ma è da leccare o da mossicchiare? Senti, le pannocchie meglio evitare, soprattutto se sono crude. Ma già siete preparati lo professore, già ha messo le due strisce, sì. No, io ti dirò, stasera ho fatto una cenetta di quelle proprio la stessa rete. Ho voglia di macchine. E allora sono state preparate stasera, ben condite, le abbiamo dato una sorsettina, un pochino di salatina, un gelatino. E va bene così per oggi, dai. Se voglia di lumacchine, i noghi che ne ho bene, soprattutto a seconda del canale, dove sì. E comunque, la... Ammazza di varia. Chi sono i lumacchini? Lumacchini, che va in capo, non lumacchine. Otto, interamente versati di istituto geometri. Gli istituto geometri tu non sai che cos'era, soprattutto in prima e in seconda. Oltre a quello ho fatto anche il militare a Como. Oh mamma mia, Como. No, io ricordo i geometri, il periodo che praticamente si faceva disegno in laboratorio. L'unica cosa che mi ricordo di allora è che mi si era rotta proprio la squadra del tendigrafo, ma mi si era completamente staccata. Il professore mi aveva messo due, e il disegno mio, proprio finito, fatto proprio ora, fatto tutto, proprio finito, che era una bozza in scalone a 100 di un caseggiato chiuso, questo mi ricordo perfettamente, mi aveva messo due solo perché mi si era staccata la squadra dal tendigrafo ed era caduta per terra, mi aveva messo due, ero di una incazzatura allucinante. Ma li avevi finiti poi? Cosa, disegno? Sì, è bellissimo, era finito proprio, ma me l'ha detto anche in faccia, mi ha detto, lei ha fatto un capolavoro, ma solo il gesto che ha fatto, ma se non l'abbiamo conducata, io si è staccata da sola e ne è caduta per terra, mi ha messo due. Se non il disegno, l'istituto geometri è finito là. Dove? Oh, hai detto, ma l'istituto, hai fatto l'istituto geometri. Allora? Sei geometra. Non lo sapevi? Ah, siamo colleghi. Ma ci picchia. Aspetta, no, vedi, invece... più è una scuola di vita e aver fatto 4 anni di cantiere, quello sì. Io l'ho fatto appena sono uscito dai geometri. Sono rimasto, e questo ti faccio vedere le fotografie, ma non ho modo di vedersi un attimino più con calma. Quando abbiamo fatto l'Alghero Bosa, io sono subito andato a lavorare in cantiere con Benassi, uno dei più grandi costruttori in Sardegna, che era socio di Allasio, che è stato presidente, Benassi è stato anche presidente della Torres, padrone di mezza Santa Teresa di Gallura, il Moresco il suo, il più grande albergo che c'è a Santa Teresa, proprio il cuore di Benassi, dei figli. Io sono stato dalla mattina alle 8 con il geometra di Ida, e mi ricordo come oggi, dalla mattina alle 8 alla sera alle 8 con questa stadia in mano, sempre tirando quote nell'Alghero Bosa, non ce la facevo più, mi faceva solo ogni tanto scambiare, dice no aspetta questa quota la prendo io, è molto importante, io ti faccio vedere come si fa. E io guardavo le vela canocchiare, se poco a poco sbagliavo la vela canocchiare, cioè, a me devi guardare, non guardare la gente che sta passando, si accorgeva da lontano che io spostavo le vela canocchiare, quindi ero fuori quota, ma c'è già detto i colpi che pigliavo. Ma non c'erano neanche radioline, si andava a zittirli. E comunque Benassi l'ho conosciuto anch'io, sicuramente tu hai lavorato anche qualche volta con mio padre. non lo so, io sono un moribondo, mi hai visto già in faccia e mi hai detto, tu sei un po', io ho fatto molto, ma molto, molto, sottolineo molto lavoro di cantiere, molto, quando poi abbiamo allenato la Garobosa, io facevo anche le strade, sono stato a Santa Teresa di Gallura, abbiamo costruito il villaggio di Porto Pozzo. E lì, credimi, anche con mio fratello, dormivo, mangiavo, dormivo dentro gli scavi, capito? Per fare tutti i calcoli, tutte le mani. Proprio aiutante della regione tradita, perché ancora non avevo fatto, non avevo eseguito il top, diciamo, che era l'esame di Stato. Praticamente stavo con lui, sempre presso a lui, quindi tirando quote dentro gli scavi, i calcoli del ferro, questo tutto mi ha aiutato. Mi sono solo rilassato quando poi sono andato a finire alla Saras come assistente e lì praticamente ho preso un responsabile di cantiere. Lì abbiamo costruito il depuratore della Saras, quindi tutte le cubature, tutte le cose, poi da lì sono andato fino a Leniche, che mi pare stavamo parlando l'altro giorno. Lì abbiamo fatto tutti i calcoli delle selle in cemento armato che andavano ad appoggiare i pinti per i nastri trasportatori del carbonile che arriva sino a Fiume Santo. Da lì mi ho giocato il posto perché maledetto a me ho fatto quel concorso di acquerotto e ci sono ancora. E ci sono ancora. In che anno l'hai fatto tu i giovani? Io l'ho fatto dal 94, 8 anni. 96. E allora ti hanno lasciato di quella stecca. Tu mi fai qualche nome di qualche qui l'hai conosciuto Guidello, tu che c'era lì, poi ti dico, mi dici se l'hai conosciuto perché è il maestro che parlavamo stasera, eh? Avanti Franchi. Positivo a Camparoggio, belle esperienze, anche quelle ci vogliono nella vita, cappa, vai Jordi. Ma quindi conosci anche, all'ASL dovresti conoscere qualcuno, quelli dello Sprezza, o Leone? Ma di quelli che erano i geometri? Cappa. Così, diciamo che li conosco, ma io non è che legavo molto, perché era una passione un po' contemporanea, perché lavoravo e studiavo, quindi quando ero a scuola era Pisanina, basta, non è che stavo molto, io in ricreazione uscivo molto poco, uscivo da solo con qualche amico proprio di quelli stretti, che tra l'altro qualcuno poi è andato all'università e un paio sono ingegneri, uno è ingegnere edile e l'altro invece ingegnere idraulico e tra l'altro è un mio responsabile, ingegnere di Rio, e poi ha fatto il passaggio da noi al genio civile e adesso è responsabile tecnico al genio civile, Angelo di Rio di Pozzo Maggiore. E quindi stavo dicendo, non è che uscivo molto, io ero lì dove c'era stando, no? Dove c'era? Anch'io, Piazza Marconi. Esatto. Dietro però, se ti ricordi, noi eravamo anche dall'altra parte, anche tu, o poi l'hanno chiusa e voi entravate solo a Piazza Marconi. Dall'altra parte c'erano i ragionieri, e poi la struttura era tutta i ragionieri, tanto che l'avevano affidata, tant'è vero che i geometri sono andati via, poi adesso sono andati loro. Ma lo sai che io la prima preside che ho avuto era Gungui Pottaro. Ho sentito parlare di quella io. Allora io ho fatto 83-88, beh allora c'ero io, ma sei sicuro, 83-88. Eh sì, primo luglio 89, io già cavallo. Aspetta, ma allora, 89, ma non 79. Scusa, cavallo, un attimo di bianco, arrivo subito. Sì, ma allora sei entrato in ritardo. Io, sì, ho perso 2 anni perché ero fuori per lavoro. Aspetta, tu ne hai 50, no? Esatto, 51 da fare. E del? 60. 60, quindi a 14 anni 75, tu stai sbagliando. 75-78. Sei incoglionito. Hai detto per un orientamento, 75-78 e 79, già tutto fatto, primo novembre dell'80 sono partito militare. Anche perché, se te l'ho detto, sono entrato io nell'85-86 e sono uscito 8 anni dopo, ma quindi non ti hanno mai bocciato? Non credo proprio. Io ho fatto tutto a regolate, dalla prima elementare alla quinta elementare, dalla prima media alla terza media, poi tutto regolare. Non mi posso lamentare di essere stato il ferro, ma comunque mi sono andato bene. Io primo novembre del 1980 sono partito militare alla Spezia, ho fatto il CAR e sono rimasto 25 giorni lì e poi ho fatto tutto il militare alla Maddalena, alla scuola di allievi sottufficiali. Quindi sei degli ultimi mesi, no? Sì, sono 20 novembre, chi è che chiama? Io ottobre lo stesso ero a Coso, alla Spezia lo stesso, però non ne ho fatto militare. No, io l'ho fatto. Io l'ho fatto e l'ho voluto fare anche perché mi hanno pagato per farlo, quindi per me è stato un gioco a ragazzi. Io ho fatto il CAR subito alla Maddalena, alla scuola di sottufficiali, ero sotto capo, poi sono rimasto lì sotto capo di picchetto, dicevo tutta la base dell'armeria. Però sono passato sergente, facevo solo le ispezioni e mi sono girato sergente maggiore. Facevo solo praticamente le ronde notturne insieme all'ufficio di ispezione e basta. C'era l'ufficio mio lì, all'ingresso proprio della scuola. E la notte facevo il controllo assieme all'ufficio di ispezione agli allievi della scuola praticamente e basta. Sabato e domenica ero libero, sempre a casa, c'avevo già una macchina, quindi scendevo a Porto Torres tranquillamente, perché abitavo la mia madre, e poi come ho terminato il militare ho continuato a lavorare, a 25 anni avevo già la casa pronta. Mi sono sposato con la casa già pronta, mia e company. Scusate, io vi saluto e me ne vado in 144, dai, si riascolta e ci si aggiorna domani, dai. Ciao Claudio, ciao Grote, tutto a domani, ciao. Che è mezzanotte? No, non è mezzanotte, ma sto andando prima di tutto a fare la commissione, poi non so se ce la faccio rientrare in radio. Così che ce la riascoltiamo domani, ciao. Ciao. Opla, io dicevo mezzanotte perché fra 5 minuti di nuovo in radio, aspetta. Sai che però sicuramente sto andando a fare qualcosa, magari poi rientra. Dai, ci sentiamo dopo, perché se coincide, se no. Buonanotte anche a te, alle prossimine. Allora lì, tanto il bidello che c'era, era prima i ragionieri. Era l'unico bidello che c'era, gli altri erano nome, era Carlo Carboni, c'era Cavalli 3, che era Monti, che è il maestro di queste radio che in quello che ti stavo dicendo, grande radioamatore, un diciamo non sassarese, quindi sono trasfertista, passavo più tempo a Sassari che a Porto, invece comunque non è che eravamo ben voluti, diciamo. Beh, io compagno di portatore se ne ho avuto parecchi. Mentre invece c'era un altro, non so se ti ricordi, il negozio di fiori che c'è di fronte, dite, forse ti ho già fatto il nome, mi sono ricordato anche il cognome di questa persona che forse mi ha venduto l'apparato, il primo Kenwood. Che è quello che hai detto a me l'altro giorno. Appa. In breve è un ex maresciallo dei carabinieri, capito? Che ha la figlia che ha il negozio di fiori lì in Piazza Marconi. Sì, già ho capito chi è, te l'ho detto. Non te lo confermo qua, ma già hai capito. Già ho capito chi è, dai. Non ci sono problemi. Sì, ma non così. Avevo qualcuno e stavamo molto assieme, ma poi, ti ripeto, siamo un po' pessimisti a qualcuno, ci vediamo a Sassari. Ogni tanto, poi, quando sono andato lì al collegio dei geometri lì via Closio, da poco sono andato a ricevere un documento, ho trovato addirittura uno che lavora lì, che conosco molto bene lì via cos'è, da via 4 novembre pare sia il collegio, no, adesso ho il negativo, il collegio è in via, non è in via Armando Diaz, ma la parallela, come si chiama, quella di sopra? No, via 4 novembre, quella lì, palazzo dove c'è, come si chiama, l'ufficio di Giago. Ho negativo, via 4 novembre, quella che dove c'è Pusaro, via 4 novembre. No, è vero, è vero. Via Armando Diaz è qui di dietro, sì, l'altra che sale dalla tua parte, ho capito. Ha giù compreso. E sono andato poco lì comunque. Dovevo ritirare un documento. Non mi serviva. E ho trovato addirittura uno che mi sembra è di vista, mi ha salutato. Mi sembra di vista dell'era mia e addirittura si è diplomato assieme a me. E tu che sezione hai fatto? La, quindi ti avevi fatto francese? No, perché? Come che lo cambiavano ogni tanto, no? Come lingua, prima e seconda superiore c'era la lingua associata e non mi ricordo se era francese o inglese, perché la B, io ho fatto la sezione, no, la sezione B forse era francese, sì, hai ragione, era allora in inglese, perché io ne ho fatto 3 o 4 di sezione e mi sono diplomato per la sezione B. Quindi non sapevo, in effetti adesso non mi ricordavo che loro avessero fatto il francese, perché io la prima e la seconda l'avevo fatta in sezione facendo inglese. E io ho optato proprio la sezione A, perché era l'unica dove c'era l'inglese, il francese non mi è mai piaciuto. Poi non c'ho neanche la remoscia per parlare francese qui. E allora, ma in quei tempi non era un problema di sezione, era un problema di organizzazione. A livello di istituto, perché come ben sai, quell'istituto era diviso in due e alla fine non si capiva più niente. Forse tu sei arrivato dopo, quindi non ti ricordi, ma io entravo dall'altra parte, dalla parte dei ragionieri, e attraversavamo il cortile per andare nell'ala dei geometri. Era un casino tutte le volte. Casino, ma poi, no, io mi ricordo solamente di quello che succedeva durante le riunioni di istituto dei ragionieri, che noi uscivamo fuori a comprare i pacchi delle uova alla ricreazione per tirargliele dalle finestre dei bagni. E allora credo che sia stato uno dei motivi per cui non ci hanno più fatto passare dalla parte loro. E infatti io ricordo quello. Non solo l'assemblea di istituto, ma anche alla festa delle matricole, e poi non si capiva più un accidente, cioè ecco perché io poi non avevo più. Cercavo proprio la fine per andare via e basta, tutto lì. E poi ho saputo che avevano diviso e quindi là dietro è rimasta il passaggio scale dall'altra parte, da via Porcellana ai ragionieri e da Piazza Marconi direttamente all'ingresso diretto per i geometri. infatti era motivo della lotta con i ragionieri, era quello, perché scendevamo a quello che si chiamava allora la casa del pane. Arrivavamo e non c'era già niente, perché loro la facevano 20 minuti prima di noi, capito? Non è bastato lui, perché o si mettevano d'accordo con qualcuno per suonare la campana 10 minuti prima, capito? O uscivano tutti a Luigi Amoledo, cioè io mi ricordo proprio lì, esattamente, alla casa del pane, e poi alla fin fine io andavo sempre lì alla ex casa della Bottarga, perché era l'unico dove riuscivi a farti fare un panino. Alla casa del pane non c'era mai niente. Non avanzava nulla, entrava ieri e si prendevano tutto proprio con brutalità, nel senso che darmi tutto a me perché tu non devi mangiare. E ti giuro, più di una volta io mi giravo le palle e andavo lì dietro la strada, l'ex Bar Ferrari, come cavolo si chiamava, e mi prendevo un tramezzì. Ti ho detto proprio perché non c'era mai niente lì. Tu metti. Grandi tempi, molti soldi, molta voglia di fare, di crescere, e basta. Ma e tu hai continuato praticamente l'attività, e quindi attività, oddio, lavori sì col tuo titolo di studio, oppure fai qualche altra cosa? Claudio, tu sta chiamando Pinuccetto. Non intendo io Pinuccetto, Pinuccetto. Ma perché ti ho detto di Pinuccetto? No, mi ha detto Antonio Falchetto, che c'è Pinuccetto da Budugio, mi sta chiamando. Poi ho fatto una parola, era alle 7. Se lo sento le rispondo, ma io non lo sento adesso. Attenzione Pinuccetto. Beh, non intendevo anche a me, si è già combinato. Infatti, no, un passaggio, ho sentito, stava chiamando. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo, ragazzo. Hai capito cosa ti ho chiesto? Quanto? Io ho fatto, come si dice, il tirocinio prima del coso, come si chiama, dell'esame di Stato. Poi ho fatto un po' di cantiere e dopodiché ho iniziato il conservatorio. Una volta che ho iniziato il conservatorio, 3 anni mi hanno chiamato a Cagliari subito, ho iniziato la carriera. Quindi lavori sempre nel settore? Di che cosa? La carriera, come ho fatto tutt'altra cosa, perché ho studiato al conservatorio. Ah, e questo non so per dove. Ci diremo le cose nostre di persona, No, io il tirocinio l'ho fatto alla Promofiere di Via Torres. Alla Promofiere di Via Torres c'era uno studio di un geometra, l'ho fatto lì. E poi da lì, come ho finito, ho fatto tutto, e trovo il mio inizio lavori è stato subito, immediatamente, Benassi come cantiere, e poi da lì ho iniziato tutta la parte metalmeccanica e tutta la parte di costruzione, depurazione, montaggio e gestione dove sono adesso. E ancora c'ho tanto da imparare, tanto da soffrire, che se mi mancano 6 anni a togliermi da mezzo le palle. Come scuola sicuramente è una scuola di vita, ma perché di solito che andava male alle medie gli scrivevano nella pagella, si consigliano gli istituti tecnici, quindi i più mandaloni finivano tutti all'istituto dei giovani, e infatti classi da 25-30 persone, prima e seconda, poi si riducevano a 16-10, capito? E tu immaginati che il periodo, tra l'altro, sono ancora in piedi Montelettre, non sei come tutti i quartieri Montelettre a Sassari. Sì, ho avuto 30 anni a Sassari, io non è che ho avuto un giorno, ho 25 anni, quasi 26 anni di matrimonio, quindi se avevo fatto quel che avevo, ero ragazzino. No, i tempi comunque non posso incriminare niente, come ti ho già detto in persona, io giù che li ho fatti da ragazzino, se volevi ottenere qualcosa, perché altrimenti mi sarei trovato al facchinaggio oggi. certo punto sei anche motivato di quello che fai, no? Perché se uno ti chiede se cosa fai questo, cosa fai quello, ci picchia da 50 anni, non è un mestiere, ti sembra che sei fatto da quando sei nato a 50 anni. E comunque non sei credibile. Quest'ultimo passaggio non ci crede nessuno, secondo me. Non hai mai comandato e non ti, o meglio, non ti piace comandare. Guarda che non è così, eh. E si sente. Non è vero, Antonio. Guarda, io, se tu hai un giorno libero, mi fa piacere, tanto non ho problemi. Vieni con me, tanto noi siamo a Pare Picco, una cosa che ti piacerà anche, vedere esattamente quello che faccio. Tu ti accorgerai delle persone che mi stanno attorno, cosa vedi, cosa senti e su quale posizione io rimango sempre. Sembra così. Non mi piace essere comandato, forse sì, ma che io dica ad una persona vai, fai quello, mi viene male a volte dirlo, lo dico ridendo, capito? Cioè cerco di fare in modo che quella cosa si sviluppi senza che io dica ma vai e fai quello, non stare lì fermo. No, non ci credo, cioè non ci credo in me, capito? Non riesco a dirlo, ma io lo dico in una maniera diversa, dove ridendo quello dice, asciuga, mi sono dimenticato di fare quello, sto andando, cioè a questi livelli veramente, ti giuro, non sono mai riuscito a dire, ma pensi mi fermo, tu no, lo stai facendo con lui, no, la giro, questo qui l'abbiamo fatto, la cipicchiavo, boh, se mi ricordo che era di più il lavoro fatto, boh, voi siete fermati, mi è stata la luce, boh. No, siamo usciti prima, ecco perché così. Beh, allora accendiamo questa luce e facciamo andare in moto piccolo. Sarà, non ti vedo così diplomatico, magari sul lavoro lo sì, però il carisma del comando c'è, perché io credo che nella vita poi ci siano persone nate per comandare e persone nate per obbedire. Tu per obbedire ti ci vedo poco. Beh, io lo so solo, siamo 280. Ti ricordo che io per quello che faccio sopra di me c'è un altro, anzi ce ne sono altri due, di cui un ingegnere della mia età, anzi un anno più grande, che abbiamo un ottimo rapporto e mai si è permesso di dirmi Claudio mi devi fare questo, no, nel modo più assoluto. Collaboriamo, vediamo, cerchiamo di crescere insieme, di sviluppare soprattutto per l'azienda, perché l'azienda che avevi ricevuto il complimenti del QRA qua familiare, poi adesso con questo ultimo passaggio ti sei un po' cagato. Ma c'è qualcosa di più recente, scusa. No, sai, qua fanno finta di non essere razzisti, capisci? Ma scusa, i negri sono negri, nel senso buono, cioè che l'era del razzismo è finita, non è che si deve solo perché quello deve essere fatto, tu devi contribuire ad essere un negro dei vecchi tempi, no? Se benissimo di cosa sto parlando, perché per loro era abbassare la testa, lavorare e portare a casa i soldi al padrone, però loro non ne arrivavano mai. Noi siamo pagati a stipendio, quindi con quello si può fare, si fa. Se naturalmente si può fare bella figura con l'azienda, con te stesso, con i tuoi colleghi, con i tuoi superiori, si fa, altrimenti si va a casa, ma c'era una quaranta gradi, altro non si poteva. Cioè era una cosa assurda per me, dire no, dai, finiamo oggi perché domani abbiamo da fare altre cose, ma non esiste. Cioè eravamo un bagno di sudore completamente. Io mi sono sceso come un bulletto dalla macchina con l'aria condizionata, ecco, è arrivato, noi ce ne stiamo andando, c'è caldo, piaio, pieghiamo tutto e ce ne stiamo andando. E così abbiamo fatto, siamo rimasti una bella oretta a rinfrescarci lì nella zona di lavoro, un sorsettino di birra fresca, dopodiché si è timbrato e siamo andati a casa tutti assieme, perché fare lo stravagante non serve a niente intanto. Lo puoi fare oggi, domani, sono sicuro che dopo domani ti mettono una pietra al collo e ti buttano a mare. Si è recuperata la gamba, assolutamente sì, assolutamente. E il laboratorio di analisi dove dovrebbe essere pure via Firenze, a servizio via Garzetta? No, noi abbiamo il nostro laboratorio che è a Caniga, a Fontana Velina, quindi all'impianto nuovo di Caniga, che si chiama Fontana Velina. Lì c'è una biologa e un perito chimico, una farmacobatteriologica, la dottoressa, e l'altro invece il perito chimico fa tutta la parte ingresso e uscite degli impianti, sempre dei reflui stiamo parlando, e i fanghi attivi e quelli aerobici. Per quanto riguarda la nostra, il nostro laboratorio, quindi il laboratorio di aziendale. Dopodiché io ogni primo mercoledì della settimana ho a casa dei miei carabinieri, tutti da lì partono. No, no, negativo, negativo. Io sto dicendo il laboratorio che c'è giù alle cliniche di San Pietro, l'istituto di igiene che c'è. No, no, no, l'istituto di igiene noi no, da noi viene proprio l'ASL e sono quelli, l'ASL del laboratorio che sono quelli che partono, c'hanno un laboratorio lì dietro il rizzetto proprio a parte dei carabinieri, quella sezione nuova che hanno fatto di staccata. Sono 4-5 che si spostano da lì e poi l'Arpas è direttamente in quella da Cagliari, quella la più pericolosa, quella vuole milligrammi per metro cubo segnati giorno per giorno, la giacenza di tutti i fanghi, temperatura, insomma a volte mi fanno anche incazzare, sono porca, per non dire una parolaccia, cioè è assurdo, vai. Diciamo che sempre 30-40 gradi, ecco, tra l'altro mi fai rifare le rise dei fanghi, i soli, i palabili, per dirti a te che cosa, che abbiamo 200 ml di gradazione per metro cubo sui fanghi, ma non mi fa ridere, a volte mi incattevo questa gente, quella è molto pericolosa, l'Arpa è quella che si sta più a calcagni, l'ASL settimanalmente fa un giro, controlla, niente di particolare, non sono quelli di tutto igiene, tutto igiene controlla la parte potabile, tanto io seguo la depurazione, te l'ho già detto, io seguo le acque nere, depuratori, l'ASL istituto di igiene, quindi come ASL istituto di igiene controlla i potabilizzatori, le acque bianche. Bravo, no, infatti, adesso che mi ci fai pensare è vero, però pensavo che controllassero anche le acque in uscita dal depuratore, capito? Perché di acqua chiara si parla nel momento in cui esce dal depuratore. Siccome mi ricordo vagamente quando era successo quel problema a Canga, erano intervenuti anche da lì, se non sbaglio. Sì, sì, niente, ma lì sempre intervenuto di igiene, perché praticamente le acque che sono fuoriuscite in liquami, ma stiamo parlando di Canga vecchio, no, era già nuovo, hai ragione, è nuovo, era stato avviato tra l'altro a poco, i liquami che sono fuoriusciti dalle fasi di contenimento, quindi dal cosiddetto canale, per poi convogliare in vasca di ossidazione e a suo tempo andare a essere alimentatori finali e quindi essere lavorati, diciamo, perché sono acque che vanno poi ad irrigare, di trattamento e irrigazione, e si era rotta una canale, erano convogliato con quelle dirette che passavano sotto il cavalcavia della vecchia ferrovia, dice un passaggio di acque bianche, e quindi è successo un casino di Gesù Cristo, lì infatti è intervenuto l'istituto di igiene per vedere se a livello ambientale con un lavoro solo, che non ti dico qua, e invece hanno constatato che non si poteva fare, quindi è successo un pandemonio, perché pare che le acque che erano confluite proprio lì erano cariche di ammoniaca, e se mi dice ammoniaca fa quelle schiume bianche di ammoniaca, che quindi aveva fatto l'anno, insomma, non mi va di raccontare qualcosa. Me lo ricordo proprio, schiumava, me lo ricordo, si vedeva addirittura da quel bar che c'è, non so se mai sei andato, da Roberto mi sembra che si chiama. Io lo so, sì. Lo so, infatti quando faccio i controlli e vedo schiume bianche è la prima cosa che faccio, anche c'è di turno, direct, tutta di andare male, perché? Perché si è alto di ammoniaca, ma come fai a accorgerti? Le schiume bianche a bassa ossidazione, dai, meno reagente, e soprattutto controlla sempre l'ossigeno in vasca, perché è molto importante quello, se la vasca non è ossigenata almeno all'80-90% semplice ma allo stesso tempo complessa la situazione da gestire, cioè devi avere un'istruzione in merito che ti metta nella condizione di poter gestire la situazione. Ce ne sono parecchi anche perché oggi gli impianti, perlomeno quello di Canica e Fontanavelina, è un impianto di ultima generazione, nella quale ci sono milioni e milioni di metri cubi lavorati durante il giorno. Tu pensa che il trattamento fanghi fa 4 cassoni, quindi stiamo parlando di 26 metri cubi per cassone al giorno solo di fango derivato dal trattamento, proprio dal processo dell'impianto. Quindi tutto quello che è sedimentato viene tolto e lavorato su una nata pressa che poi viene pressato e messo nei cassoni e portato alla lavorazione del concime. Quindi quella fase finale, che sono i sedimentatori finali con i due chiarificatori primari e secondari, vanno a lavorare l'acqua che è quella del trattamento finale che poi va a derigare. Quindi tu immagini tutta quella che va a uscire fuori, tra l'altro, perché l'inverno è un lavoraccio, sinceramente parlando, perché le vasche di contenimento sono talmente colme e quindi talmente piene che non ce la fai a trattarle, quindi i bilanci a livello chimico sono sempre molto parziali rispetto all'estate. Ma poi i fanghi cosa ne fate? Di questi 26 metri cubi dove vanno a finire? Ci abbiamo il trasportatore che ha vinto l'appalto, viene e aggancia il cassone con il scarrabile, aggancia il cassone e li porta al trattamento. Prima era Angelino Romeo che si occupava di questo, poi da quando avevamo avuto quel problema non so cosa sia successo, ho sentito che abbiamo bruciato l'azienda. Fanno concime, fanno quello che usano per concimare i terreni, le piante, per fare concime vero e proprio, quello è oro. E non lo puoi trasportare perché sono rifiuti pericolosi, tanto è vero, io ogni volta che firmo il formulario me lo guardo per il trasporto, me lo controllo 1000 volte prima di darlo al trasportatore, perché se lo becca la guardia di finanza e non ha tutte le cose in regola, peso, tutte le analisi allegate di quello che sta trasportando, e c'è la mia firma, non mi vengono, mi prendono e mi chiudono a San Sebastiano. Ma da quello il biogas non si può tenere? Biogas a Canica non è ancora attivo, l'unico impianto che abbiamo in provincia di Sassari a biogas è quello di Tiesi, dove io ho lavorato da novembre sino ad aprile, ero lì a Tiesi anche, ho fatto Tiesi proprio per l'avviamento dell'impianto, perché è stato consegnato dalla casa madre, diciamo, a noi, alla multinazionale, a gennaio del 2011, e io sono andato lì per l'avviamento. E poi una volta avviato, una volta tutto fatto, sono tornato nella mia zona. Quello è biogas, quello praticamente brucia i gas recuperati dal trattamento proprio del fango e lo tramuta in una lavorazione particolare che è proprio quella a bio, con delle vasche di contenimento. Naturalmente è un impianto dove non si può stare dall'odore e dal pericolo che c'è, e va a bruciare poi in una fiaccola che si accende giornalmente per bruciare i gas. Quindi io dico, se un impianto di trattamento di acque reflue come le Porte Tiesi, che credo più all'avanguardia di Sardegna, ha delle vasche di contenimento al gas, quindi serbatoi veri e propri con livelli come quelli dell'Enche, è mai possibile che non ci sia un'azienda, un qualcosa, un qualcuno che possa fa sì che questo gas, anziché andare in fiaccola, non venga emesso in rete. Gas buono, veramente buono, buono, perché è stato controllato anche da poco. Nessuno ne vuole sapere niente, va bruciato tutti i giorni. Infatti sai quante risorse buttiamo davvero? Immagina, ti potrebbe scaldare comunque qualcosa che va in turbina e produce corrente, capito? No, guarda, i due serbatoi si sono attesi, misurati da me, perlomeno, se non sono cieco, l'ultima misurazione che ho fatto di quell'impianto proprio in conduzione vera e propria, cioè e l'impianto lavorando al 100%, processo attivato e tutto, era un primo serbatoio, adesso mi ricordo quanto è largo, eccetera, ma dico solo in altezza, ma è enorme. In altezza c'erano 8 metri e mezzo di livello di gas in uno e 9,50 metri nell'altro, in circonferenza non mi ricordo quanto è. E in una mattina, perché c'è la caldaia che va in funzione sempre a gas, che praticamente cosa fa? Scalda i fanghi che vanno poi a bruciare nel trattamento bio e poi vengono recuperati i gas attivi e messi qui in questa vasca, tutto tramite un sistema di, chiamiamolo gasolotto, capito? Tutto chiuso, molto pericoloso, io ogni volta passo lì mi viene il coso, c'è un orologio, non sposta, sembra che lavori in una gasiera. Quando quello è pieno e quindi il processo è finito a livello di biogas, lui sputta fuori così, proprio la parola vera e propria, sputta fuori la valvola di accesso alla turbina e riempie i serbatoi. Questi serbatoi in automatico, come arrivano a livello di guardia, presso delle pompe che non fanno fuoriuscire il gas dai livelli di guardia, capito? Vanno a bruciare direttamente in fiaccola, una cosa allucinante. È una vergogna, perché c'è un doppio spreco, uno di ossigeno per far bruciare questa fiaccola, che poi brucia allo stesso tempo inutilmente del gas che potrebbe essere utilizzato in altre cose. Sì, questi sono i controsensi, vedi? Controsensi che purtroppo l'azienda e casa madre non vuole saperne per far sì che questa cosa venga recuperata. Io ho sempre detto, per me è un grande spreco avere fare una cosa del genere, perché se è vero che il gas è la materia prima per fare di tutto nella vita umana, scaldarci, cucinare, fare, eccetera, come mai non si possa attivare sì, comunque. In effetti. Che sarebbe, ti ripeto, ci sarebbe almeno i paesi riesci a alimentarli anche bene. E anche bene. Sicuramente come gas è anche migliore dell'aria profumata che abbiamo come percentuale. Guarda, adesso non me le ricordo, non voglio sbagliare, ma i calcoli fatti da persone, sono venuti due tecnici di una esteri, tra l'altro, assieme alla nostra dirigente, proprio dirigente, manager della multinazionale dove sono io, due da Madrid, e poi hanno arrivato anche un tecnico con, io pensavo che fosse lui in persona, ma il braccio destro è Moratti, per dirti la pura verità, che il direttore tecnico è responsabile della direzione generale della SARAS, che tu sei benissimo, la SARAS solo quello fa, quindi lavora tutte le materie prime, e ha detto ufficialmente che lui quasi così non ne ha mai visto, da cui da un trattamento di processo di fango lavorato di un impianto che ha 30 anni, capito? 30 anni c'ha tesi. Sto aspettando che si arrivi a un livello di carica buono e dopodiché ti chiedo servizio. Servizio, quindi ti vuoi comprare il gas? No, ragazzi, tuo servizio. Non è servizio. E arrivare a un livello di carica buono. Ah, ah, ah, servizio, ho capito. Quindi al telefono, allora. Lo accenderei. Accendiamo, eccolo qua, è già acceso, che non si è visto. Va bene, allora fammi andare a vedere nel frattempo, che ho parlato sempre io, mi hai fatto dire tante cose, sono sicuro che ti hai preso degli appunti, in modo che poi non ti possa fregare nessuno, però sappi che il brevetto è sempre mio, hai fatto parlare solo a me e tu sei stato ascoltato. Piacevole, quando si dicono cose intelligenti è piacevole ascoltare, assolutamente. Sei un grande, Antonio Rode, sei un grande, sarai sempre per me un grande. Delinquente. Fammi andare a me, non c'ho più voce. Non hai detto un grande goggia però, comunque dai, prendiamola per buona, scherza naturalmente, dai ti aspetto. Sì, un grande grotte, sai cosa vuol dire? Me l'hai detto tu, quindi ti ha giudito tutto. Sono già alle 11:10, facciamo questa chiacchierata al telefono e poi spengo. Ma non era completamente asciutta, dammi altri 2 minuti, dai, se no non ce la fa. Ho capito, va bene. Dopodiché, se vuoi, vai anche a metà, cioè dammene un'altra. Oh, va bene quella, non ti preoccupare, va benissimo quella. Oddio, dai, ciao, ciao. Che c'è delle impostazioni, un attimo non le devo cancellare. E via. Oh, sei sparito. Sì, non mi ha dato, non c'era abbastanza carica. Comunque, con determinate persone si possono fare determinate cose, non altre, non altre, no? Quindi c'è una specie di strozzatura, una specie di strozzatura di marmita, e certe cose non entrano dentro, non entrano meglio, non entrano uscire fuori. Ma niente, il problema è che da parte del punto che c'è la paura di doversi incontrare con questo gruppo, la cosa più intelligente sarebbe stata quella di chiedersi a ascoltare, però è troppo difficile perché caratterialmente le persone non ci arrivano. Vabbè, infatti, devo mettere adesso la portante. Se non avevo venire a spento, non mi ricordo, sto uscendo un tremante. Roberto. dice, non si diventa. Nel momento in cui tu nasci e sei un signore, cerchi di portare sempre a tutti e far capire a tutti che sei un signore. Qualcuno lo accetta, qualcuno no, ma non è colpa mia. Ma lo sai che cos'è? Che si nasce o aquile o pulcini. E se il pulcino alla fine vuole con le galline, è pure in basso. Il problema è riuscire a volare come le aquile. Ed è inevitabile che una persona che nasce aquila, a un certo punto si eleva per forza di cose. E il pulcino gli lascia una certa quota. E vabbè. Non sono d'accordo con te. È vero anche che prima di diventare aquila uno è un semplice uccello, poi si cresce, si diventa aquila, mi ha detto proprio bene. Ma io una cosa ti ho detto e ti continuo a dire e ti ribadisco ancora una volta che a me non me ne può fregare di meno, l'importante è che nessuno si intrometta nella mia personalità e soprattutto in quello che io faccio, in quello che ho voglia di fare, di quello che soprattutto ancora oggi posso dire insegno a qualcuno. Per il resto ci siamo già detti alcune cose che mi sono rimaste impresse e che ho accettato molto molto volentieri da te, e vedi che sono presente. Una persona, il problema è che l'inutilità del maestro sia nel momento in cui non c'è un allievo che ha le orecchie per intendere, ma la presunzione per non ascoltare, per fare con le orecchie. E lì che nascono gli ignoranti, ma nel vero senso della parola, nel senso persone che ignorano come comportarsi, che sono la cosa peggiore dell'ignorante che vuole rimanere tale, non sulla bambina, ma che vuole far sì che gli altri siano nel momento in cui gli altri si elevano. La gente si rende conto che non c'è. Ma la dignità e la personalità fa la persona ad un livello tale da far sì di proprio di ignorare quelli che sono quegli ignoranti che sono nati ignoranti e vogliono far diventare la gente ignorante. Vabbè. Bene così, dai. Sai che faccio una veloce spazzolata, ma giusto per sentire su altre tre persone, dopodiché me ne vado in 144, ma più che altro lo faccio per conciliarmi il sonno. Ok, perfetto, non ci dobbiamo dire altro al telefono, e allora per questo momento anch'io mi congelo da quello che è il mondo della radio, faccio una carrellatina anch'io. Ho visto c'era qualcuno in banda amatoriale, un salutino e poi spengo tutto e vado a nanna. D'accordo, Antonio, ci aggiorniamo domani e per qualsiasi cosa ci sentiamo al telefono. Ciao, buonanotte, ci sentiamo. Ma poi ti porto a conoscenza domani delle varie calendarizzazioni degli eventi, o comunque dell'idea che abbiamo degli eventi che vogliamo portare avanti e come calendarizzarli, se secondo te diciamo sono i giorni ideali per fare le cose, dai. Ci sentiamo comunque domani o al baracco oppure ci facciamo una passa. Ciao, Monica 44, mi hai sentito, mi hai ascoltato, e alle prossime. Ciao Anto, grazie a te delle due chiacchiere, ok, ci aggiorniamo domani per qualsiasi